buongiorno, dottor Pardo, dottor Cinta, grazie di esistere. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Sono risultato a metà perché dovevamo vincere, l'abbiamo fatta. Sicuramente dovevamo e potevamo chiuderla definitivamente, perché abbiamo sbagliato alcune occasioni clamorose, che era più facile fare gol che sbagliare, ma purtroppo ci siamo riusciti anche in quello. Il positivo c'è che abbiamo messo minuti nelle gambe di quelli che giocano meno, abbiamo vinto. Adesso aspettiamo 1° marzo, ma da domani cominciamo a preparare la partita con l'Inter, che sicuramente sarà partita diversa. Obiettivo, portare il calcio, no, povero non mi piace, di terza divisione ad ambire, a sognare. Non è più il calcio, si può giocare, si può ancora giocare, c'è margine, quindi ragazzi giovani, sognate, perché se sognate bene, sognate, e volete le cose, sicuramente si può arrivare, si può competere quantomeno. Ultimi 10 minuti dovremmo buttare il cuore oltre lo stato, sogno che uno prende in jolly, mette la palla all'incrocio e supplementare. Cosa cazzo voglio sognare? Che devo sognare? Oggi ero vagamente depresso, per fortuna è arrivato Pardo. Che ti hanno fatto? Ah no, leggo i titoli, è grande fantasia tra i titolisti in questo periodo. Hai visto? È un momento magico dopo il caso dell'HD di ieri. HD di ieri, oggi è grigio Milan, resta in ballo Gazzetta. Sì, grigio sì. È il Milan, Core Sport. Un Milan in grigio, Corriere della Sera. Si staccano su tutti. Repubblica, piccolo Milan, ma la finale vicino, un rigore di Balotelli piega Alessandria. Milan soltanto un rigore, Alessandria non è finita. Tutto Sport. Sì, non è facile fare i titoli, lo diciamo, insomma, difesa della categoria, insomma, ogni giorno inventarsi delle cose possibilmente il originali, grigio, poi qui il grigio era... Il grigio dominante. Sava Sandir, era un tema. Era sì, però posso dirti, semifinale di Coppa, cioè, guardala così, semifinale di Coppa Italia, vinci 1-0 in trasferta, era facile, la strada per la finale è già ampiamente spianata. Il 1° marzo il Milan riceverà l'Alessandria, vincerà la partita, andrà in finale di Coppa Italia con l'Inter con la Juventus. Direi sì, e con conseguente posto in Europa League, a prescindere da tutto. E va bene, credo sia nella norma delle cose, anche se poi, insomma, in realtà, per come si è messa e per la fragilità che il Milan in certe circostanze ha dimostrato, premesso che manca 1,5 mesi. È molto difficile per Alessandria, ma non è impossibile, secondo me. Cioè, per Alessandria, secondo me è 80-20. Sì, vabbè, con un gol di scarto, un 20% lo magari concedi. Accendi, fai un gol e crei dei fantasmi senza fine. Poi, certo, cari, la rivoluzione del 1° marzo, io non ce la vedo al mio, perché è chiaro che sei fuori con Alessandria. Non lo so, però, insomma, secondo me, ripeto, 80-20, non ho detto 60-40, ho detto 80-20, però non è completamente fuori gioco. Senti, ma se tu fossi Mihajlovic, ipotizzando una quasi certa finale all'80%, chi vorresti? Milan o Inter o Juventus? Beh, sono le rivalità, no? Le due grandi rivalità, anche se in realtà la rivalità del Milan con la Juve è inferiore a quella dell'Inter con la Juve, quindi ma vorrei l'Inter. Anch'io. Vorrei l'Inter, perché mi sembra più giocabile, onestamente, ed è affascinante anche con la Juve. Sarà... Che la Juve non sia distratta da pensieri di Champions il 23 maggio, ma non credo. Difficile. Lo auguriamo ovviamente a tutti i tifosi bianconeri all'ascolto, anche se poi, sai, la Juve adesso ha una rivale complicatissima, una delle peggiori che poteva affrontare. Però se dovesse riuscire nell'impresa, poi a quel punto, cioè, diciamo la verità, se passi il turno col Bayern non devi avere più paura di nessuno. Vabbè, e comunque stiamo parlando di una squadra che l'anno scorso è arrivata in finale di Champions, quindi attenzione prima di considerarla fuori dai giochi. Però è difficile arrivare in finale di Champions, questo non ci sono dubbi. Tanto Mihajlovic ha già fatto fuori Balotelli e Boateng per il derby. Sì. Mario, lo sapevo che comunque sta molto indietro in condizione. Prince ha fatto alcune partite bene quando è entrato, tutto, però si vede che sono fuori condizione, quello senz'altro, perciò Obiettivo nostro era anche questo, di farli giocare per mettergli i minuti nelle gambe, come a loro due, come anche tanti gli altri, perché mi servono tutti, perciò li volevo far giocare anche e soprattutto per questo motivo qua. 800240024, non trovo niente di scandaloso in queste dichiarazioni, no. Balotelli ha segnato sul rigore, però uno è fuori da settembre appena rientrato, l'altro non giocava titolare da, non so, da 74 mi pare. Dalle Olimpiadi, anzi dai mondiali di Germania. Dai mondiali di Germania del 74, che cosa ti potevi aspettare da due giocatori lungodegenti? Cioè non molto più di questo. Assolutamente. Pare. No? No, ma assolutamente, ma insomma, adesso sinceramente se il Milan oggi deve aggrapparsi a Boateng ripescato, finora con buoni risultati e con Balotelli che è stato fuori per mesi, vuol dire che c'è qualcosa che non va. Il Milan deve avere altre certezze, non ce le ha fino in fondo, e quindi cerca di pescare queste soluzioni alternative che però francamente in questo momento secondo me non hanno colpe. Certamente insomma la stagione non sta andando come i tifosi del Milan sognavano, però ripeto, ancora secondo me c'è della possibilità, c'è margine, no? Ma no, cioè, se poi il Milan chiude con la Coppa Italia in mano e un posto decente, sì, in classifica, ha fatto alla fine una buona stagione, avrebbe fatto il suo. Ma di Zamparini che dice è solo cinema, fermiamo il campionato, a proposito dell'operazione fuori gioco, cosa mi sembra una cosa ridicola. Io trovo veramente, lo diciamo anche ieri, fermiamo il campionato. Enorme, non solo enorme rispetto, ma enorme simpatia. Simpatia forse eccessivo per i magistrati, nel senso che mi dà fastidio quando mi dà fastidio quando c'è il pregiudizio, no? Che i magistrati sono fondamentali e decisivi come in ogni paese, perché se no non funziona nulla e siamo all'anarchia. Però ci vuole grande responsabilità da parte dei mezzi di comunicazione, e qui la parte la facciamo noi, nel ricordare alcune cose che sono banali. La presunzione di innocenza, qui oggi ti sbattono sul giornale, nell'opinione pubblica c'è quasi una presunzione di colpevolezza. La frase di Zamparini non, quasi. Io non la capisco, questa è un'inchiesta che dura da anni. Fra l'altro hai letto di che cifre stiamo parlando? Sì. Il Corriere dello Sport che ha fatto una tabellina precisissima. Stiamo parlando di cifre. Stiamo parlando di cifre, per carità, che magari nel budget di una famiglia. Ok, che poi fanno incazzare gli italiani, ma nel complesso sono incazzatissimo. E se hanno frodato il fisco, devono dare i soldi. Ci devono dare i soldi. Però ecco, parliamo di le somme relative all'indebita detrazione dell'IVA posta in essere dalla società di calcio secondo quanto stabilito dal GIP. Cioè, ti faccio un esempio: il Palermo 63.000, il Genoa 83.000 euro, il Milan, che è quella teoricamente con la cifra più alta, 240.000, la Ternana 1.257 euro, praticamente una multa quasi per eccesso di velocità. Quindi è giustissimo, i magistrati vadano avanti, facciano. L'evasione fiscale è una delle emergenze di questo paese, ma non voglio fare il barisoni della situazione. Però noi cerchiamo anche di relativizzare le cose. Se ci sono le cose, si puniscano severamente. Però non è che stiamo parlando di banditi, che capito? No, ma magari ne stiamo anche parlando. Però non per il momento non lo sappiamo. Però Zamparini che dice: fermiamo il campionato, venerdì in Lega chiederò agli altri 19 presidenti di sospendere tutto. Penso che questa sia non sia giustizia ma cinema, un'inchiesta che si basa sul nulla, nella quale non c'è nulla e che ha come unico effetto un grande impatto mediatico. Il paese sta andando allo sfascio. Quello. Si dà spazio a pseudo notizie eclatanti sbattendo i colpevoli in prima pagina senza avere la minima. È quello. Poi sai, io dal lavoratore dipendente ho diciamo il dente, perché i lavoratori dipendenti le tasse le pagano da sempre. Certo. Adesso poi sono però insomma storie che fanno arrabbiare moltissimo. L'evasione fiscale è una vergogna, è un furto alla collettività. Però bisogna anche rendersi conto che quando parliamo di cifre così importanti come quel budget di una squadra di calcio, questi budget di questi contratti, e parliamo anche di società complesse, insomma, qualcosa può succedere, deve essere punito, ma non, secondo me non c'è la gogna mediatica fino ad avvenuta colpevolezza all'ultimo grado di giudizio, deve essere evitata. No, questo vale per tutti, vale nel calcio, nomi che girano inducono in tentazione i malpensanti. Questo è un potere da giornalista che mi fa paura. Ho molto pudore, cioè mi sento molto mi dà molto fastidio l'idea, no, che appunto ho detto ieri mattina, mi sono svegliato con questi titoli sui giornali, con questi nomi, e insomma francamente mi sembra eccessivo. Credo che tutti noi giornalisti questo potere dovremmo usarlo col massimo dell'attenzione e massimo del rispetto, ripeto, fino all'avvenuta colpevolezza, con la speranza che, con la certezza che i magistrati faranno il loro dovere, puniranno chi deve essere punito e andranno ad assolvere chi deve essere assolto. Traffico, torniamo subito. Tutti convocati. Tutti convocati. Tu ti ricordi che abbiamo sentito ieri per Alessandria Milan, no? Alessandro Milan. Non si 800-24-0024, 800-24-0024. C'è ancora Milan? Sì, c'è ancora Milan. Ah, c'è ancora Alessandro Milan. Alla luce, allora, per ora non emigri, alla luce della partita dominata dai rossoneri sui grigi. Grande partita, una semifinale di Champions League fantastica abbiamo fatto in questa andata. Con gol del tuo giocatore preferito, peraltro. Il mio Mario giocatore Rotelli. Preferito, sì. Sì. Dopo, sì, vabbè, certo, ci mancava che sbagliasse il rigore. Dopo 15 minuti, credo, volevo andare personalmente a Torino a prendere Balotelli e tirarlo fuori dal campo. Però. Vabbè, ma di che tiramenti? Ma voi, scusate, posso dirvi una cosa? Mi state disturbando in un momento un po' epico. Perché io sono a pranzo, tra l'altro, con una persona che allo stadio c'era. Che se volete io vi potrei passare, anche perché è una persona che si intende di calcio molto, molto, ma molto, ma molto più di me. Tu dici? Ma proviamo. Adesso lo chiediamo. Ve la posso passare? Lo chiedete a lui chi è, ve la posso passare. Vediamo, vediamo un po', posso passare Radio 24 in diretta? Vediamo. Pronto? Pronto, buongiorno. Carlo buongiorno, Genta, Pierluigi Pardo. Con chi parliamo? Parliamo buongiorno. Con la leggenda assoluta. Con la leggenda è stato stimato che fra i 10 e i 15 milioni di ragazzi italiani siano diventati tifosi del Milan per merito del signore con il quale siamo al telefono. Gianni lo Rivera. Sa Gianni Rivera questa responsabilità? L'ho imparato adesso, sì. No, ma è vero, guarda, io ne ho conosciuti 7-8, ma proprio di quella generazione lì che non c'entravano niente con Milano, che... si sono consegnati. Come va? Oggi bene, si presenta bene, anche Gianni Rivera, autobiografia di un campione. Oggi facciamo anche quello. No, oggi è da un po' che la presentiamo. Stiamo girando un pochino. Adesso oggi siamo a Milano come prima tappa milanese e saremo ospiti dei piccoli azionisti del Milan e presenteremo la mia biografia e parleremo un po' di quello che c'è nella biografia e anche altre cose, naturalmente. Tutto. Come sono i piccoli azionisti del Milan? Un po' depressi? Sono vivaci. Sono vivaci. Ma poi di fronte a Rivera... Sopravvivere così non è facile. Assolutamente. E invece il calcio italiano come sta? Com'è la situazione dei tram di Milano, di San Siro? Ormai siamo solo in due che andiamo in giro sul tram. No, c'è ancora molta gente, per fortuna, non so se dire per fortuna o per sfortuna, che viaggia ancora in tram. Ma San Siro era più bello prima o è più bello adesso? Ma a me San Siro piaceva prima perché era più compatto, l'ultimo anello è un po' dispersivo da quello che si è capito. È aumentata un pochino la possibilità di mettere la gente allo stadio. Però era più affascinante prima. Ci mancherebbe, Radio Verità, Radio Verità. Poi noi siamo, dato che qui squillano telefoni, succede di tutto. No, poi io confesso che comunque insomma c'è emozione perché Rivera, cioè stiamo parlando con un monumento. Con piacere perché mi sono accorto, ho scritto la biografia un po' tardi nel tempo. Però ho visto che c'è un po' di partecipazione, di attenzione, qualcuno poi si ricorda il periodo in cui gli capita di aprire una pagina e si riconosce in quell'epoca e quindi mi fa piacere. Anche perché non so se la scelta, insomma comunque la decisione di Gianni Rivera di stare un po' in disparte, no? dal mondo del calcio post carriera ha ulteriormente contribuito alla creazione di un mito che è assolutamente dovuto alle qualità tecniche, alle qualità umane, ma da questo punto di vista ha rafforzato questa cosa. Credo che la curiosità nel leggere l'autobiografia sia anche questa, no? Ma io spero che lo sia, che qualcuno riesca immedesimarsi nella voglia di prendere un libro diverso, perché è una biografia in cui c'è di tutto, c'è il racconto da quando c'era piccolo con le fotografie, poi c'è gli articoli di giornale, le fotografie del gioco, di quando ero al governo, di quando ero in Parlamento, di oggi, adesso che faccio il presidente del settore tecnico della Federcalcio. Insomma, abbiamo messo un pochino tutta la mia storia, che è un po' un'epoca nella quale si sentono condivisi diversi soggetti che sono cresciuti come me in quel periodo. Ah, certo, c'è anche la famosa foto di quando parla al microfono, sgomberate, sì, il secondo anello. Milan Bologna, io c'ero. Sì, me lo ricordo, sì. Anche lo quella. Abbiamo messo tutto quello che abbiamo trovato, l'abbiamo messo. Cioè, chi è il Rivera più Rivera, quello che si avvicina di più, insomma, i grandi della storia, no, del calcio? Ma non è possibile. In Argentina 200 Maradona, 200 aspiranti Maradona ci sono stati, poi nessuno, forse solo Messi. No, per fortuna in Italia non ce n'è nessuno, perché non è possibile. Così come non era possibile neanche ripetere Maradona in Argentina. Qualcuno ha sperato di poterlo fare, ma era illusione. Certo. Ma quello che si è avvicinato di più invece è a Rivera? Chi? Nessuno, perché non è possibile che due esseri umani possano essere paragonati. E quindi ognuno ha la propria personalità, la propria tecnica, il proprio modo di muoversi, di parlare, di pensare. Insomma. Questo è verissimo. Non ci sono due copie esatte. Anche se tante volte non si assomigliano neanche i gemelli. Immagino. Dipende se è omozigote o eterozigote, lì è la scienza. Gianni, un'ultima cosa: il sogno era Alessandria, ecco. Coppa Italia e Milan in Champions. Mi sa che siamo distanti. Adesso non è finito, però sarà difficile. Sarà difficile. Ma non è finito, temo che sarà difficile, anche perché non è stato un grande Milan, ma insomma ha vinto il blasone. Sì. Sì, ha vinto la squadra comunque più pronta, la squadra che era più squadra, ovviamente. Certo. Ma è anche normale che sia così. E quando, insomma, tiki taka, noi siamo qui, quando vogliamo, perché c'è un po' di devozione, capito? Quindi Pardo. Sì, però insomma, noi siamo qui. Andate a comprare il libro, che poi ne parliamo. Libro non andiamo a comprare una copia, ne andiamo a comprare 57 di copie. Ah, 57. Va bene. Da regalare a tutti. A tutti quelli che conosco che sono diventati milanisti grazie a Gianni Rivera. Grazie. Grazie. A voi e ci ripassi Milan che sarà lì. Milan, hai approfittato del momento. Arrivederci. Grazie. Arrivederci. Milan, pronto Milan. Hai capito? Dopo Gianni Rivera io non chiedetemi neanche mezza parola. Non c'è bisogno di dire nient'altro. Ha parlato Gianni Rivera, punto. È come intervistare Springsteen, no? Cioè siamo su quei livelli. Punto. Ma tu avevi la maglietta numero 10 rossonera da piccolo? No, ma io ero piccolino. Di che anno sei? Mi dimentico. Sei 70, adesso è 70. Vabbè, tu sei del 70, lo scudetto della Stella te lo ricordi, probabilmente stavi tirando pure qualcosa in campo assieme a Genta in quella circostanza, no? Avevo 7 anni, ti ricordo, caro Pardo. Beh, 7 anni? 7-8 anni. 7-8 anni, il signor Milan. Ne avevo 10, non è che... Ma è più milanista Milan o Rivera? Vabbè, ma dai, ma che paragoni fate? Cioè, ma stiamo parlando del dio del calcio, cioè, ma non mi mettete in imbarazzo. Vabbè. Su questo siamo tutti d'accordo. Ciao Ale! Ciao Ciccio, dai, molliamo, cerchiamo, conteniamo le emozioni. Ecco, capisco che... Rivera è una di quelle cose, no? Una di quelle cose, anche perché poi a differenza di altri è vero che ha fatto tante cose dopo la carriera che sono quelle contenute in questa autobiografia, però non l'abbiamo mai visto in ruoli, per esempio non l'abbiamo quasi mai visto in televisione, è uno di quei casi alla Mina, no, se vogliamo, alla Lucio Battisti di personaggi che rimangono leggende, rimangono icone e che non annacquano il proprio alone. Poi c'è sempre la domanda che aleggia dal 1987: ma perché Berlusconi non ha chiamato Rivera in un ruolo dirigenziale nel Milan? Probabilmente per la stessa ragione per cui Maldini non è ancora stato richiamato. No, ma questo, però, posso, io su questo sono laico, nel senso che... Ma anch'io, Pierluigi, che credo che non ci debba essere la pensione minima, nemmeno per le bandiere. E credo, fra l'altro, magari visto che il calcio è anche chiaramente un'industria di tipo diverso, di tipo emotivo, di tipo sentimentale, magari è chiaro che gente come Maldini, come Rivera, in ogni caso, come Via Sanetti nell'Inter, come Totti nella Roma, rappresenta qualcosa a prescindere, e io, se fossi un dirigente o presidente di questa squadra, mi riterrei comunque, fossero anche soltanto come ambasciatori, perché sono icone viventi, sono leggende. Ma dal punto di vista invece dell'operatività, io credo che poi i manager debbano essere manager, quindi assolutamente, poi magari Rivera ha fatto anche politica a livelli molto importanti, quindi poi magari sarebbe stato bravissimo anche nel dirigere una grande società come lo può essere Maldini, però difendo il diritto laico che una società possa decidere di ammainare la bandiera e di non garantire comunque un ruolo operativo anche ad uno che è stato una leggenda. D'altra parte l'hanno fatto anche i Chicago Bulls con Jordan, che voleva entrare in società, gli hanno detto no grazie, stai fuori. E se l'hanno fatto i Chicago Bulls con Jordan, Jordan è un altro, Jordan, Rivera, Springsteen, Che Guevara, che bello, chi altro c'è di queste icone, Maradona. Va bene, 800-24 Matteo da Bologna, Nicola da provincia di Chieti, state lì, borsa. Tra poco seguiremo tutto, prima però spot per noi. Seguiteci su Twitter, @tutticonvocati. Si ricomincia. Tutti convocati. Un Inter che è rabbiosa, che ha voglia di... innanzitutto di cercare di centrare l'obiettivo della finale, come l'abbiamo noi, che ha voglia di fare una prestazione importante, perché viene da un pareggio in casa con il Carpi, però non è assolutamente un Inter in difficoltà, perché le qualità della squadra non è che l'hanno persa in 15 giorni. Sicuramente questa è la più difficile, ma comunque la semifinale, quindi solitamente la semifinale è sempre contro una squadra forte. È una partita su 180 minuti, quindi dovremmo essere bravi a fare un buon risultato nella gara d'andata per poi giocarcela di ritorno. Così le voci da vigilia di quanto ci aspetta stasera, Juventus-Inter, per capire quale sarà almeno per metà la seconda finalista di Coppa Italia, partita molto attesa. Matteo Bologna, buongiorno. Buongiorno ragazzi, buongiorno. Come va? Bene, bene. Dimmi. Volevo chiedere una cosa. Al di là della chiusura del discorso di Jordan, che secondo me ha fatto dei fatturati in vita sua, che potrebbe comprarsi Chicago Bulls e fare qualsiasi ruolo gli venga voglia. Ma Virtus o Fortitudo? Questa è la domanda decisiva. Ma oltre a ciò, chiamavo anche per fare un po' di chiarezza sul discorso che il signor Pardo a inizio trasmissione ha detto, probabilmente ho capito male, che il Milan, se va in finale, avrebbe... No, deve vincerla, certo. Garantito. Deve vincerla. Che ultimamente sia cambiata. Sì, no, regola, deve vincerla. Non sia così... Mi sono spiegato male e chiedo scusa. No. Così lo capisco meglio anch'io. Deve vincere la Coppa Italia. Deve vincere la Coppa Italia. Però è chiaro che deve vincere la Coppa Italia. Se va in finale, in pratica, se la vincente della Coppa Italia è fra le prime cinque, va la sesta del campionato in Europa League. Quindi diciamo che il Milan, con la finale di Coppa Italia, se non arriva fra le prime sei, è fuori dall'Europa. Detto questo, insomma, credo che non ci siano grandi dubbi sul fatto che arrivi fra le prime sei, e chiaramente la finale di Coppa Italia rappresenta un'ulteriore possibilità. Certo. Ma non, a scanso di equivoci, la finale di Coppa Italia non basta. Regolamento è regolamento è quello. Nicola, provincia di Chieti. Salve, buonasera. Buonasera. Niente, io sono ancora emozionato per Gianni Rivera. Scusatemi, siamo in tre. Durante aspettando al telefono, e da milanista mi può capire. Prima di cominciare, signor Pardo, dica, quando lei comincia a trasmettere alle 21:30? Oh, la è il domandone che ci stavamo aspettando. La ringrazio della domanda. Se lunedì tu non cominci... lunedì andiamo alle 23:05, noi cambiamo orario ogni settimana, lo sapete, sì, insomma, sempre, per rendere tutto più semplice. Sempre prima, peraltro. Se non cominci a trasmettere alle 20:45, io te le do. Mio, ma non si fa. No, perché me li fa arrabbiare tutti. O fai la prima serata o fai la seconda. Però lunedì siamo alle 23:05, seguiremo il mercato che finisce alle 23, quindi insomma, ultimamente devo dire cominciamo 23:30, l'altro giorno abbiamo iniziato alle 23:35, abbiamo avuto un comunque risultato. Siamo siamo in piena petizione, risultato eccezionale, siamo con in piena petizione per portare Tiki Taka al, ma secondo me non è un programma la prima serata, lo dico contro i miei interessi, è un programma di dibattito sportivo, quindi è un programma che in seconda serata va molto bene, il martedì va a dormire, cioè va a lavorare, il programma va molto bene come ascolti, va molto bene sui social, va molto bene come affetto delle persone, quindi grazie. E però insomma ecco, 23 c'è Ruggeri, Rico chiamate Ruggeri, chiamate subito Ruggeri, c'è Inter Juve, Ruggeri chiamatelo De Luca, prendetelo, per il ritmo, mamma mia De Luca, chi se tiene, intanto eh? c'è Giacomo Cicciovaletti che ha il telefono, eccolo qua, ciao Giacomo. Pronto. Ciao Pier, ciao Carlo, come stai? Tutto bene, non troppo presto, Tiki Taka, perché serve poi il fine del secondo spettacolo a cena, e certo, ovviamente sì, esatto, non si può andare in onda, andare subito. Lunedì vieni? Ma con tanto piacere, perfetto, con tanto piacere. Le convocazioni. Cioè, allora, io vengo con piacere, sì. Tanto piacere se succedono determinate cose domenica. Ah, immagino. Stasera. Certo, con certo. Piacere comunque. Con piacere comunque. Senti, Ciccio, ti presento, non so se lo conosci, ma magari sì, un cavaliere della Repubblica Italiana, per meriti sportivi. Diego Confalonieri, che è bronzo alle Olimpiadi di Pechino, argento e bronzo ai mondiali. Minchino. Ciao, buongiorno a tutti. Ciao Diego. Lui sta bene, voi? Tutto noi bene, grande, però grande. O va bene per te o va bene per Ciccio Valenti stasera. Sì, non c'è, non... che vada bene per Ciccio stasera. Ah, Io ringrazio per questa splendida conoscenza, un personaggio che ha fatto tanto a Pechino, per l'amor di Dio, che tu possa avere tutto bello nella vita, tranne che ovviamente domenica sera, dove tu possa sportivamente piagnucolare. No, ma stasera Juventino, no? Sì, assolutamente. Juventino. Anche di più. Però Ciccio ci racconta una settimana complicata per gli interisti, no? Nel senso che non sanno dove girarsi fra stasera e domenica. Qual è più importante? Quale senti di più? Dovendo chiedere al destino un regalo fra stasera e domenica, che... Non c'è niente da fare. Secondo me, io rimango dell'idea che Milan e Juve sono due concetti molto differenti come rivali. Milan, se io sono cresciuto a Milano, quindi per me il Milan rimane il Milan, non c'è niente da fare. Cioè, il derby per me rimane il derby, a prescindere dal tipo di competizione, può essere qualsiasi tipo di derby, è ovviamente lo stesso. Stasera è una la sfida, insomma, tra le due, onestamente, mi proteggo il derby. È la grande differenza, secondo me, da quello che ho capito, fra gli interisti milanesi e gli interisti non milanesi. Ieri avevamo Cattelan, che è piemontese, di Tortona, e chiaramente la sua rivalità con la Juve. La rivalità con la Juve è più fresca e più polemica, mi sembra, no? La rivalità col Milan è più storica, tradizionale, più culturale. Storica, più folcloristica. Sta entrando nello stesso momento, stanno entrando un falco e un gabbiano, cioè Enrico Ruggeri, che facciamo sedere, gli chiediamo subito: tu che rivalità senti di più, quella con la Juve o quella col Milan? Ecco che lo microfoniamo, come si dice in gergo. Ecco, lo microfoniamo, eccolo qua, lo stiamo microfonando. Ecco qua, Enrico Ruggeri, fra poco a Sanremo. Fra poco a Sanremo, sì. Senti che voce. Più rivale il Milan o la Juve? Cioè, a bruciapelo, sì, già questa così. Domanda così, cioè, perché rasserena gli animi. Te la volgo in positivo. Dovendo chiedere al destino, al sovrannaturale divino, una cosa... No, arriva e ti dice: guarda, una la vinci e una la perdi, fra stasera semifinale di Coppa Italia con la Juve e domenica derby col Milan. Ma io, per quanto mi riguarda, è più accesa la rivalità con la Juve, secondo me, perché ci sono insomma dei pregressi abbastanza delicati. Poi con il Milan c'è stato un momento di affettivo nella mia infanzia, perché il Milan di Rocco, di Rivera, di Prati era comunque... una squadra affascinante, interessante da tutti i punti di vista, insomma. Certo, la Juve aveva Sivori, poi ha avuto Baggio, però Baggio poi è andato un po' ovunque, no? Baggio ha girato anche il Milan all'Inter, insomma. Baggio di tutti. Diego Confalonieri da Juventino, come la vive la rivalità con l'Inter? Ma è una rivalità sicuramente importante, che negli ultimi anni, nel mio caso, si è un po' andato un po' a cadere, perché l'Inter onestamente non è mai stata una squadra particolarmente impegnativa per la Juve. Io sono convinto che se voi avesse fatto questa domanda un paio di mesi fa, avrebbero detto tutti la Juventus, perché l'Inter magari aveva sogni di gloria, no? E quindi voleva... Non ce l'ha più? È fuori? Non la riconosci più come antagonista? Non fa più paura? No, con questa Juve qui, devo essere sincero, aspetto solo il prossimo passo passo del Napoli. Perché io ero uno di quelli che all'inizio dell'anno era convinto che sarebbe stato un anno di transizione, un po' per il cambio di molti giocatori, un po' perché Allegri lo vedevo un po' in difficoltà all'inizio. Devo essere sincero, mi hanno tutti veramente impressionato, perché la Juve quest'anno ha avuto un mese e mezzo, l'ultimo mese e mezzo incredibile. L'altra sponda condivide. Mai rischiato di pareggiare, onestamente. A Carpi, l'ultimo minuto, un po' la Sampdoria, ma ha sempre dimostrato di essere una squadra padrona del proprio destino. Con Fiorentina e Roma l'ha risolta un quarto d'ora dalla fine. Però questo, secondo me, è una ulteriore sottolineatura della forza anche morale di questa squadra, che non si arrende mai. Ecco. Certe volte, mediamente nel calcio, certe volte è meglio vincere di poco che di tanto, nel senso che secondo me è una dimostrazione. Però, ahimè, va detto che negli ultimi mesi, quando vedi la Juve, senti un po' quella ineluttabilità, cioè dici prima o poi il gol lo fanno. Stai facendo come Marocchi, gli avversari si scansano. No, prima o poi il gol lo fanno. Facendo come Lineker, che in quei tempi diceva il calcio è un gioco 11 contro 11 e poi alla fine vincono i tedeschi. Esatto. Negli anni in cui i tedeschi vincevano, e qui vince la Juve. Ciccio Valente, hai capito? Non fate paura. No, ho capito e vabbè, rispetto Bruno, anche se stavo leggendo adesso su internet che sono stati annullati tutti i risultati di Pechino, che è clamoroso questo per dopo il genere. A Confalonieri è stata ritirata la medaglia olimpica. È un peccato, mi spiace Bruno, perché il tuo sforzo è stato grosso, notevole, ma e quindi avendoci dato degli inutili, no sto scherzando, però avendoci dato degli inutili penso che c'era la ferita più grossa che possa avere, anche perché in effetti in questo periodo è meglio stare zitti, insomma. Però stasera c'è la partita, Già partita. In Coppa Italia, insomma, già il Napoli ha sottovalutato l'Inter e poi avrei preferito la partita secca. Anch'io. Essendo, come dire, tifoso della squadra obiettivamente un po' più in difficoltà, in quei casi la partita secca aiuta, Sì, è comprensibile come giochi tutta la Coppa Italia in partita unica e poi vai a giocare le semifinali. Ma la televisione, lo dico con affetto. Ci mancherebbe un. No, in questo caso è un'altra televisione, non quella per la quale lavoro io. Però, secondo me è anche divertente. Cioè, è chiaro che qualcosa toglie in termini di spettacolo, però. Vediamo il lato positivo, avremo quattro serate invece che due di belle partite, quindi da questo punto di vista secondo me insomma io godo abbastanza nel pensare che ci saranno due Inter Juve. Io mi godo da pazzi la Coppa d'Inghilterra, tutte e due. Io preferirei una Coppa Italia in cui le grandi entrano in gioco molto prima. Qual è la tua squadra inglese? Ma dire che mi piace talmente tanto il calcio inglese che faccio fatica a sceglierne una. Adesso insomma il Leicester è un bel miracolo, a parte guidata da un tecnico italiano, però proprio gioca bene, è rapido, verticalizza, Marez e Vardy che sono veramente due sorprese. Drinkwater, buon giocatore, bella squadra. Ranieri ha fatto una roba, francamente, sta facendo una roba incredibile. Chiamiamolo prima o poi Ranieri. Chiamiamolo. Certo. Enrico, ma tu sei di quelli che Mancini è diventato una pippa? No. Perché ce ne sono tanti, in genere il calcio è così, vinci tre partite, sei un genio, poi due partite dopo ti esonerano. No, anzi, io ho apprezzato molto il cambiamento di mentalità che ha fatto Icardi, per esempio, che all'inizio del campionato era uno che aspettava i palloni, adesso se li va a cercare, torna, contrasta. E non deve essere facile interagire con Icardi, no? Spiegargli che cos'è una squadra, insomma. E quindi, io sono per Mancini. Quel gol lo facevo anch'io a 50 anni domenica. Però bisogna essere lì. Come diceva Mourinho, ditemi qual è un gol bello di Inzaghi, però ditemi anche qual è un gol inutile di Inzaghi. Mancini sta facendo quello che è il massimo con una squadra che obiettivamente non è ancora attrezzata per vincere lo scudetto. È una squadra che può fare molto bene, però per vincere gli scudetti, insomma, manca ancora qualcosa. Siamo per fare il traffico, salutando Ciccio e Diego. Chi passa il turno? Diego? L'Inter. Ciccio? L'Inter passa il turno, c'è anche il ritorno, passa l'Inter. Quindi c'è un plebiscito Juventini interista, passa l'Inter. Quindi derby abbiamo capito chi è il più scaramantico dei due. C'è il traffico? Ma adesso devo chiedere una cosa su Sanremo. C'è il traffico? Sì, traffico. Traffico. Tutti convocati. convocati. Prova a dire il falco e il gabbiano. Il falco e il gabbiano. 800240024 con Enrico Ruggeri. Grande Ruggeri. Siamo... No, allora io devo dire invece la mia. Io ho una squadra che mi sta veramente sulle palle, una grande rivale, che è la squadra del lunedì sera di Ruggeri, che gioca a calcetto e non viene a Tiki Taka. Ma gioco da, ma cambiare da 40, giorno. Da 35 ho capito, anni, ma giocare il martedì, giocare il giovedì. O se no, giovedì organizza un'esterna. No? Potremmo farla, sì. Organizza un'esterna e vai, mandi una truppa. Senti, chi è la Juventus, nel senso la favorita di Sanremo? Beh, dipende, insomma, è un po' diverso. Lì dipende dal meccanismo. Quest'anno, come negli ultimi anni accade, il vincitore verrà decretato dal televoto. Ah. E quindi è evidente, insomma, che quelli ragazzi, i pischelli dei reality, i ragazzi giovani che hanno i pischelli dei reality, parecchi, se 7 o 8 ce n'è, quindi si cannibalizzeranno tra loro. Vincerà un ragazzo concorrenti Sanremo, sai che io i reality non ho dei problemi, ma poi tanto a Sanremo chi vince lo si vede dopo. Guarda, ci in sono funzione... tre classifiche a Sanremo, c'è esatto. Quella della giuria, sì. Quella della vendita dei dischi nelle Bravo. Settimane dopo e quella del tempo, che è quella alla certo. Quale un artista come si deve dovrebbe ambire. Stavi raccontando che il grande brano di Tiziana Rivale che vinse non so quale anno. Vinse nell'83 Tiziana Rivale con una canzone che si chiama Sarà quel che sarà. Quell'anno c'era Siamo solo noi di Vasco Rossi e l'italiano di Cutugno, che è un bel giretto nel mondo. Ce l'ha fatto. Quali sono gli altri? Ha fatto qualche ascolto. I tuoi miti musicali? Ahimè, i due scomparsi recentemente, Lou Reed e David Bowie, che sono quelli, insomma, quando ero ragazzo, che in qualche modo mi hanno fatto percepire il fascino di scrivere canzoni con dei bei testi. Però poi, insomma, poi è arrivato il punk, prima c'era il progressi. Il primo concerto della mia vita furono Emerson, Lake & Palmer. Vabbè, qualità. Emerson, che ricordiamo, ha giocato anche nella Roma, nella Roma. Quello è un altro. Abbiamo zero assoluto, zero assoluto che è come la Roma, una squadra di media alta classifica. Assaglia, sì, ma è musica semplice, diciamo, musica nel semplice. Senso dolce nera, Clementino è il Napoli. Clementino, che è uno molto simpatico. Ecco, Clementino è molto forte. Clementino, quello del Napoli, no? Patti Pravo, che cos'è? Un po' il Torino, no? Patti Pravo, la vecchia signora è orrendo, la grande signora. Scanu pericoloso, può vincere Scanu. I favoriti dicono sono Scanu e Fragola. Lorenzo Fragola. Morgan con i Blu Vertigo, Francesca Michielin, nessun grado di separazione. Elio e le storie tese. È un outsider, no? Outsider, sì. Outsider. Beh, loro, insomma, non passano mai inosservati, fanno sempre cose diverse. Ecco, adesso gli altri 12 non riesco a leggere, non so perché. Vai, te li dico io. Dimmi tu, tu li sai tutti? Neffa, c'è Rocco Ant, altro napoletano, amico di De Luca. E poi ancora Irene Fornaciari, adesso qualcuno si offenderà perché me li dimenticherò, però insomma. E io ho il computer bloccato, fa qualcosa Genta, con l'elenco ufficiale. Io però voglio sottolineare però che la serata finale del Festival di Sanremo sarà in concomitanza con la partita scudetto Juventus-Napoli. Sì. il 13 di febbraio. In Rai non mi sa che non sono felicissimi, ma in realtà neanche a Sky America, perché probabilmente si cannibalizzeranno a vicenda. Spero di non guardarla, nel senso che alcuni verranno eliminati, quindi potrebbe anche darsi che io vengo eliminato e mi guardo la Juve che va a vincere lo scudetto. Perché com'è? Quindi sarebbe un trionfo, un sabato terribile. Un sabato italiano, come cantava Sergio Caputo. Sergio Caputo. Ti piace un sabato italiano come canzone? Beh. Caputo è una... tanta roba, fu molto originale, tanta roba. Tanta io roba. C'ho il coso qua che non va. Vabbè, ma te li ho detti quasi tutti. Deborah Jurado e Giovanni Caccamo. Esatto. Caccamo, Noemi c'è pure. Noemi, te l'ho detto. Alessio Bernabei, ex dei Dear Jack. Esatto, c'è un derby. E poi c'è il primo amore non si scorda mai. E poi c'è il primo amore non si scorda Che pare sia la canzone più rock di Sanremo, sì, dicono. Sì, è un pezzo molto... di orchestrale. Sorprenderà, perché in realtà, come dire, il titolo lascerebbe supporre una canzone di rimembranze, sì. No? Malinconica. Invece no, è il rock anche il primo amore. Ah, poi ho incontrato Curreri degli Stadio, sì? Sotto un ponte vicino Ponte Milvio a Roma, un momento surreale. L'ho twittato. Io che eravamo usciti da questo ristorante e praticamente è molto forte lui, tante è passato cose e io ho cominciato a fare le luci accese e noi sdraiati qua, l'ho fatto altri 5-6 metri, poi ho detto ma questo io non l'ho visto ed è della Fiorentina, mi dicono ah beh è arrivato De Luca. De Luca, tu per chi tifi? Per Clementino o per Rocco Hunt. Per Clementino. Perché comunque Rocco Hunt è di Salerno, non è di Napoli. Mamma mia, quanto sei campanilista. Quanto sei campanilista. Solo per specificare. Ma tu devi fare per Ruggeri. Tutta Radio 24 appoggia Ruggeri. Che il giorno delle cover canterà in napoletano. Che canterai? A Canzoncella. A Canzoncella. La sai, De Luca, a Canzoncella. Vieni qua. Vieni, De Luca, vieni a cantare a Canzoncella. No, non viene. È scappato. Tanto la cover si può cantare perché... Sì, è bella. La come fa a Canzoncella? Come ho imparato a fa, come ho imparato a fa, si dopo tanto tempo, te si scorda te me. Beh, buono. Mi sembra, personalità, grande personalità. Senti, Enrico, di cosa parli oggi, Al? Come si chiama? Tania Harding, che è la pattinatrice che venne fatta coltellare da una rivale per anche gettare un occhio, insomma, sulle esasperazioni dell'agonismo, dello sport, della rivalità poi tra donne, quindi c'è un doppio ingrediente. Nella musica c'è più rivalità nello sport o nella musica? Beh, nella musica ci sono più rivincite, no? Nel senso che poi ti arriva Battiato che esplode a 40 anni, quindi hai sempre una via di ritorno. Anche nello sport hai la domenica dopo, ma intanto quella l'hai persa. Certo. E poi poi vincono più persone forse nella musica, no? Vincono più persone, poi insomma, ci sono più vittorie diverse. Cioè, per alcuni fare il San Siro è una vittoria, per altri avere un teatro pieno di persone che stimi è una vittoria. Insomma, ognuno si pone degli obiettivi anche, come dire, editoriale, no? Sì, o l'Arena di Verona. O l'Arena di Verona, insomma, nel calcio c'è, obiettivamente, insomma, c'è un campionato e chi arriva primo è più contento degli altri. Io vorrei accoltellare Pardo, un giorno lo faccio. Coltellare? Sì. Come Tania Harding. Ma che è sto momento? A parte che c'è un'invasione, è arrivata la Rosciani. Siamo tutti qui. Noi ringraziamo Enrico Ruggeri. Grazie, che ci deve andare al Falco. Che si dice? Che dice sodomizza il cetaceo. Ti piace? Sì, sodomizza il cetaceo. Va bene. Quando parti? Parto, c'ho un'altra prova il 2. Seguiamo. E poi la domenica precedente mi vedo Verona-Inter. Sì. E poi parto. Ma Verona te la vedi? No. No, no, di qua 12:30 fra l'altro. 12:30 l'Inter e poi alle 2:30 vado. Vedi come tutto si consuma e tutto si combina, come e canta Re Gregori. È vero, vero. Harry, ti lasciamo andare a raccontare di Nancy Kerrigan, di questa storia, della pattinatrice buona. Ciao ragazzi, ciao. 80024, Tiki-Taka, 80024, dopo Marc Giusti tutti fanno Tiki-Taka, fa molto piacere, sono onorato. Giorgio! Giorgio! Ci sono. Buongiorno. Come va? Buongiorno, bene. Per bene, chi tifi a Sanremo? Vince a Sanremo non lo so. No, per chi tifi? Per chi tifi? Ma no, guarda, non sono molto. Devi dire Ruggeri, se no non prosegue la telefonata. Ruggeri era uno di quelli che mi piacevano. Poi cantava Mistero, che andrebbe bene per il Milan. Ma canta pure adesso. Vabbè, comunque, prego. È vero. No, scusa, il radio, intanto complimenti che mi fate sempre passare un'oretta e mezza piacevole quando riesco ad ascoltarvi. La seconda cosa è questa: mi ha preceduto il radioascoltatore di Bologna, perché per via della Coppa Italia, infatti è un'inesattezza, ma va bene così. La cosa che volevo dire io è questa: dovendo scegliere la finale, preferirei giocare con l'Inter, perché è una semifinale è una finale che secondo me avrebbe un pochino più di significato, anche di equilibrio, perché la Juventus è fuori portata per il Milan in questo momento. Se fossi milanista condividerei il pensiero. Sì, io lo sono. E la seconda cosa, volevo chiedere a gente, che ogni tanto ne parla, se mandiamo un pensiero alla Vanoli, che sta facendo un campionato che è un po' come l'Alessandria in Coppa Italia. Bello, già da un po', miracoloso. È già da un po' che partorisce i miracoli della Vanoli Cremona, quindi non mi sorprende più di tanto, ma non mi sorprende neanche leggendo il roster e conoscendo la filosofia di quella società. È assolutamente una delle meglio gestite in Italia, e la metto insieme a Reggio Emilia e a queste qui. Ne parliamo presto, anzi dopo parliamo di basket, anzi, verso la fine del programma. Adesso ci fermiamo per il GR e poi io e Pardo torniamo e parliamo con Gennaro da Napoli. Da Napoli, Gennaro pensavo da Brescia, invece Gennaro da Napoli. No, da Napoli proprio. A dopo. Buona giornata. Tutti convocati. Tutti i giorni alle 9, Mix 24, con i faccia a faccia, le inchieste, i gialli della storia di Giovanni Minoli. Dentro la notizia di Mario Sechi, Salamini di Pietrangelo Buttafuoco, la storia e la musica di Alessandra Fiori e Franco Schipani e tante novità per l'unico programma di Radiovisione. Ascoltaci anche in digitale sul DAB. Che dire, arieccici. Tutti convocati. Guarda, attenzione, perché dopo i Froci e gli Zingari abbiamo un nuovo caso. Qual è? È quello che è di prima di Ruggeri. Come si dice in questi casi, sodomizza il cetaceo. C'è chi mi scrive, ha ragione secondo me Fabrizio, non è un pochino cetacefo. Ah, certo, è vero. È un po' cetacefo. È vero. Chiediamo scusa. Le affermazioni di Pardo sono utili come il paraflu nel mese di agosto. Grazie Matteo, sei squisito. Ciao Zanzara, della puntata del 26 gennaio, quella sulle famiglie, avete messo in sottofondo una foto canzone rock and roll in francese. Qual è il titolo? Ma ti sembriamo la Zanzara. Comunque ti ringraziamo, faremo sapere. E la Pomia allora stasera in Coppa Campioni contro Istanbul. Ciao Cesare di Casalmaggiore. Vale. Okay. Marco Vicenza. Sì, Dica. Salve, ciao. Salve, ciao. Dimmi. Ciao, allora intanto un saluto a te, un saluto anche a Pardo. Grazie. E complimenti per il modo in cui affrontate così, la vita in generale. La vita in generale sicuramente, ma anche molto allegramente il tema calcistico, che è un tema che ci fa un po' tutti a satanare nei momenti decisivi. Quindi a satanare. A satanare, sì, decisamente. Intanto volevo una precisazione per onestà. Marco è sceso dalla macchina e io sono Matteo, mi ha lasciato il collegamento e lo faccio molto volentieri. Ah, fantastico. Ah, quindi è un collegamento rubato. Cioè, è in affido. Esatto. Questa è una step change phone call. Hai capito? Scendi dalla macchina a fare benzina e tracca il tuo amico Matteo. Tra l'altro posso dirti, sicuramente dici cose molto più interessanti tu, non c'è partita tra i due. Ma non ringrazio, ti ringrazio, poi io sono anche un fedele e assiduo telespettatore di Tiki Taka, quindi voglio dire siamo al top, è tutto nevodismo. Quindi chiudi Marco fuori fantastico. Dalla macchina. Domani... anzi lascialo lì, no. Prendigli anche la macchina. Marco avrà da fare, lo chiudo fuori anche perché lui avrebbe fatto un intervento pro Gobbi, sì? Pro bianconeri, mentre sì? Io sono interista e quindi la mia soddisfazione è oltremodo maggiore. Volevo dire che intanto il mio sofferente cuore nerazzurro, ma insomma voglio dire qualcuno mi capirà sicuramente in questo senso. Volevo suggerire allo stimatissimo Enrico Ruggeri, a cui faccio poi i migliori in bocca al lupo per Sanremo e ti farò sicuramente per lui. Sodomizza il cetaceo. Sodomizza il cetaceo. E certamente anche al simpaticissimo Ciccio Valenti, nella domanda che gli avete fatto, cosa preferireste tra la partita di questa sera e il derby? Io suggerirei, questa sera perdiamo pure 1-0, vinciamo il derby, però al ritorno della semifinale vinciamo 2-0 con i gol. Della serie la botte piena e la moglie ubriaca. Assolutamente, è una tecnica difficile, però assicuro che se funziona è il massimo. Sì, Sì, comunque importante secondo me per l'Inter, parlando semiseriamente, è il derby, perché rischia molto più del Milan. È la partita che non può permettersi di perdere se vuole rimanere magari ancora per un po' con le unghie attaccate al paraurti dello scudetto. Quindi quella è la gara importante. Matteo, ci saluti anche Marco, però per simpatia quantomeno. Assolutamente. Proprietario del telefono. Gennaro da Napoli. Sì. Buongiorno. Buongiorno, le volevo chiedere, secondo te la Juve, questa Juve che lotta per lo scudetto con il Napoli, esprime un gioco o sono tante individualità che si esprimono e poi fanno il risultato? No, la Juve esprime un gioco. Juve esprime un gioco, poi ci sono state squadre sicuramente più spettacolari. Anche secondo me la Juve di questi ultimi anni ha avuto dei momenti migliori di questo, come diciamo, come velocità di punta, come qualità estetica del gioco. Detto questo, secondo me è squadra. Tutto è meno che una massa di individualisti. È una squadra. È la squadra più squadra che c'è, secondo me, in Italia. Che poi viene accesa dall'individualità. Quello che Aldo Serena chiama il mutuo soccorso, no? Il fatto che tutti si danno una mano, che non si molla mai. Questo c'è veramente molto. Dal punto di vista del gioco, dal punto di vista dell'estetica, secondo me il Napoli e la Fiorentina, nei momenti migliori, giocano un calcio più bello. Però la Juve comunque è un'ottima mediazione da questo punto di vista. Vedi che anche il Napoli si accende sulle, cioè produce, cioè, poi, un eccellente gioco, cioè, poi si accende sulle scintille del suo ragazzi classi, poi quello che salta l'uomo è quello che fa lo spettacolo, no? Cioè il dribbling è quello che la picchia dentro, non c'è dubbio. Però ecco, direi voto alla Juve dal punto di vista della intensità di squadra 10, dal punto di vista della spettacolarità di squadra voto 8. No, altrimenti staremo parlando del Barcellona. Esatto. O di un'altra cosa. Claudio Raimondi, buongiorno. Da buongiorno, buongiorno a tutti. Come va? Bene, ciao Pier, tutto a posto? Tutto alla grande, tutto alla grande. Ah, mi sembra un po' moscetto il mercato, Claudio? Ma ci hanno salvato i cinesi, è brutta la considerazione, ma è così. Se non ci fossero state le cessioni di Gervinho e di Guarin, probabilmente sarebbe stato addirittura un mercato di scambi molto complicati anche. Per cui è un mercato che impone una riflessione, apre nuovi scenari, frontieri. Vedremo se avrà ripercussioni dopo queste prime esperienze a giugno per altri, perché non è che va proprio a prendere come la Major League giocatore al tramonto, ma qualcuno ancora con una buona attività, alcune chance di ingaggi importanti, per esempio in Premier League aveva mercato lo stesso Gervinho, Guarin era richiesto dallo Zenit di San Pietroburgo, hanno scelto questa meta. Sì, anche perché sono stati ricoperti di grano, l'unico che qui è andato a buca è stato Luis Adriano che ieri sera abbiamo rivisto in campo con il Milan. Io ho parlato molto in questi giorni con alcuni mediatori, dipende, essendo molto complicato dall'Italia arrivare alla Cina, a quale tipo di mediazione, mediatore ti affidi, e lì è inevitabile che c'è una sovrapposizione e per non dire estromissione in corsa di persone che inizialmente fanno decollare l'affare, quindi è molto, molto importante, complesso, la certo. strada che si segue. Sì. Chi potrebbe fare un colpo significativo? Qual è il colpo da qui fino alle ore 23 di lunedì, no? Si chiude alle 23 lunedì prossimo. Esatto. Quale esatto. sarà il 5 minuti prima di Tiki-Taka? Ma io delle apparenze non mi fido mai. Credo che la Juventus, al di là delle dichiarazioni formali, qualcosa ci stupirà e farà le ultime 48 ore, nel senso che è lì, si è riaperto un'ipotesi scudetto. Il Napoli, è vero, farà due innesti giovani, guarderà il futuro, magari pensando già a Maximovic, gettando le basi adesso da quello che abbiamo capito per giugno. Comunque lo squadrone ha resistito le offerte per Gabbiadini, allungherà la clausola rescissoria per Higuaín. Insomma, la Juve è perfetta, ma se vuole ancora avanzare in Champions e lottare per lo scudetto, doppio binario, triplo anzi, Coppa Italia, qualcosa secondo me arriverà. Magari il nome Banega. Banega. Se non può giocare in Champions League, ma in queste ore grande è molto giocatore. Forte l'Inter, è molto forte, c'è stato anche il sondaggio del Milan, ma è un giocatore che ha affrontato in Champions con Siviglia e già in Spagna, grande in Andalusia giocatore. C'era stata una chiacchierata e stiamo seguendo questa pista e secondo me a sorpresa potrebbe arrivare. Ricordiamo, non potrebbe però giocare in no. Champions League. Grande giocatore ripescato dal sì. calcio europeo col Siviglia, Monchi ci ha creduto. Grande centrocampista, non è grande centrocampista, qualche dubbio ce l'ho sull'intensità del gioco che c'è in Italia rispetto a quello che si gioca in Spagna, perché è un giocatore che ha bisogno di visto Mario Suarez che è arrivato come superstar del mercato estivo e adesso è vi ricordate Mendieta? Forse abbastanza. Il caso più caso di tutti, no? Cioè io credo che ci sia ci sia una diversità fra i campionati, allora, e da noi sicuramente pagando, sta ancora pagando adesso. Esatto. Esatto, fra l'altro sì, mi ricordo la presentazione dei giorni del G8, e a un certo punto tutti i giornalisti si misero a seguire le notizie che arrivavano da Genova. No, ma al di là di questo aneddoto, la cosa è che comunque in Italia c'è un tempo, proprio dal punto di vista del tempo, come lo chiamano gli inglesi, del pace, dell'intensità, del ritmo, del tempo di gioco del pallone, comunque ci sono dei margini molto più brevi, molto più veloci rispetto al calcio che c'è in Spagna. Quindi in Spagna sono superiori dal punto di vista tecnico probabilmente, ma da questo punto conta, di vista, detto questo, Banega mi piace. Soprattutto in quei ruoli conta, nei ruoli in cui hai spesso il pallone tra i piedi, e la storia di Mario Suarez è emblematica da questo punto di vista, perché là era comunque un eccellente giocatore, e io ricordo nel periodo estivo, quando dicevo ma Dybala è il colpo del mercato o questi nomi qui, tutti i tifosi fiorentini si indignavano, ma no, ma come, Mario Suarez è il grande colpo estivo, Mario Suarez che è già in partenza dalla Viola dopo aver giocato pochissimo. Ma Eder arriva all'Inter e Soriano Eder pure? All'Inter al 99%, diciamo che mi tengo proprio l'1%, ma ormai sì, gli agenti e il giocatore sono volati in questa missione esplorativa in Inghilterra. Bravo, parlare con Ranieri per vedere un po', in effetti il contratto è superiore di qualche 500.000 euro, 600.000 euro rispetto a quello che offre l'Inter, ma c'è un progetto, c'è l'europeo, il CT che ti può tenere d'occhio, c'è comunque la possibilità, se dovesse tenere il passo, di giocare la Champions League ad alti livelli, magari non solo per una, due stagioni, insomma uno scenario importante. Ha scelto, non si può dire, ha già scelto ed era, sono tentativi perché la squadra Ranieri offre più soldi, quindi a livello di club l'Inter dialogherebbe più volentieri in questo momento con il Leicester. Detto questo, la volontà è prevalente e conta tantissimo e si definirà. Non credo arriverà prima del derby, perché c'è tutto un effetto domino che non si riesce, credo, a concretizzare nel giro di 48 ore. La stampa sarebbe sprovvista di un sostituto, che potrebbe essere Paloschi. Il Chievo sta facendo riflessioni in questo momento se investire o andare avanti così, senza un bomber, o far crescere un giovane. C'è Inglese, che è molto bravo, potrebbe avere più spazio. Insomma, direi che oggi intanto il Napoli si assicura Barba. Ne stanno parlando Giuntoli e Carli a Milano, i due direttori sportivi di Empoli e Napoli. Direi che ormai questa sera sarà definita l'operazione, più o meno 4 milioni con i vari bonus, 3+1, non sarà ufficializzata finché l'Empoli non reperirà un sostituto, ma direi che è il secondo ingaggio. Però noti come le tratte, ad esempio Napoli-Empoli, è molto calda, e poi l'autostrada Milano-Genova si va in due direzioni. Allora il Milan tratta con il Genoa e con la Roma, cioè questo triangolo, e l'Inter con la Sampdoria. Questo... triangoli esosceri. Beh, ci poteva essere Soriano quest'estate fra Milan e Samp, non si è fatto all'ultimo, ma questa è chiaramente un'altra storia. Altre cose, altri colpi? Ma la Roma aspetta Perotti, per rivedere in tempo, non credo che arrivi in giornata, perché lì dipende da Floro Flores. Il suo è già arrivato. Floro Flores, c'è stata una chiacchiera fino a tarda notte ieri tra Preziosi e il direttore generale Carnevali del Sassuolo. Non è stata trovata la quadratura, ma c'è un dialogo che prosegue, quindi comunque credo che poi alla fine, se non è oggi sarà domani, però ti arriverà. Sul difensore stiamo lavorando, magari questa sera avremo le idee più chiare, ma un po' di indizi ci portano a San Pietroburgo, dove c'è Neto, che lo conosce Spalletti. Ma credo che la società voglia più fare un investimento differente, quindi magari posso dire Ertò dell'Udinese. Guarda caso, aveva sostenuto per conto della stampa Villa Stewart a Roma le visite mediche, ormai sono le visite mediche preventive. Poi la stampa ha chiuso per Ranocchia, arriverà domani, proprio la parentesi a Genova. Credo che Ertò, che aveva già messo sul mercato Udinese, possa essere la pista giusta per la Roma. Per la Roma. Grazie Claudio. Grazie a voi. Ciao Claudio Raimondi. Ciao a Patroclo da Treviso. Buon pomeriggio mister Zeta, e buon pomeriggio anche all'allenatrice di seconda, il signor Pardo. Come stai amico mio? Molto bene, molto bene. Ascoltate, vi invito ufficialmente, ieri sera vi ho già preso i biglietti, domenica 21 febbraio, io vi voglio con me al mio fianco, al Palaverde, che andiamo a tifare tutti insieme Treviso Basket contro Fortitudo Bologna, una sfida che non avveniva dai tempi... grande remake. C'è il concerto dei Cani a Milano il 21 febbraio, volevo dirvelo, io mi sa che ci vado. Io vengo. Ai Cani o a Treviso? No, a Treviso. Treviso è stupenda, fra l'altro. Treviso città. Perché... Verdi contro l'acqua. Stupenda e poco conosciuta. Sì, io impazzisco per l'Est. Devo dire, Trieste, tu impazzisci, detta così sembrano le canzoni di Baglioni, ecco. Impazzisci per l'est, lo sappiamo, però voglio dirti: no, il nord-est, ma Treviso in modo particolare, una città fantastica. Paolo Rimini, anche Rimini, anche a Riviera. Eccoci qua. Da tifoso romanista sul calcio oggi preferisco parlare di pallacanestro. Volevo chiederti un tuo giudizio sul preolimpico dell'Italia, che cosa riusciremo a fare, e poi invece di Cinciarini hanno preso un playmaker da Eurolega, un nazionale, quindi è già fallito il progetto italiano playmaker Cinciarini a Milano. Ci vuole pazienza, ci vuole tempo e bisogna evitare rischi di sopravvalutazione. È un eccellente giocatore, ma non, spero non ancora, un giocatore che ti cambia la vita, il Cincia. Certamente un giocatore solido, ma se cerchi un playmaker da Eurolega, un playmaker di valore assoluto europeo, forse è meglio andare a cercare da un'altra parte. A proposito di basket, sì. No, non c'abbiamo una parte sul basket. A proposito di basket, sì. Che adesso parliamo c'è della... De Luca. Mi spiace che voi, amici da casa abbiate. Non abbiate la possibilità di vedere De Luca. Ma no, mettiamo una telecamera fissa sulla regia quando siamo in onda. Si può fare secondo te? Sono un bisunto comunista, dice Giovanni da Busseto. Ma bisunto comunista fa ridere. Ma bisunto sì, comunista un po' meno, però comunque vabbè. Amen. Però bisunto, cioè, bisunto ci tengo parecchio. Bene, andiamo avanti. Poi. No, ci dicevano un parere sul Preolimpico che si giocherà a Torino. È un'occasione, no? Dai, grossa, sì, grandissima. Cioè, non è andata occasione. Male, no? No, non è andata bene, male beh. Perché Tunisia e Croazia nel primo gironcino da tre. E poi dall'altra parte probabilmente ci sarà la Grecia. Quindi immaginiamo una finale di questo torneo Italia-Grecia. La Grecia la possiamo battere mediamente, quindi sì, con Ettore Messina CT potremo qualificarci per le Olimpiadi giocando in casa a Torino, quindi io spero di non che queste previsioni possano avverarsi. 4 luglio a Torino farà molto caldo, però insomma speriamo di portare a casa. L'aria condizionata nel parquet la mettiamo. L'aria condizionata la mettiamo, vabbè. Matteo Pescara, buongiorno. No, Jerry De Rosa, buongiorno. Eccolo. Ciao Carlo, buongiorno. Ciao. A tutti. Come va? Ciao. Vai a vedere Treviso Fortitudo il 21? Abbiamo un biglietto anche per te, eh? Patroclo da Treviso ha preso biglietti per tutti. C'è il mio biglietto che va a vedere il concerto dei cani, e quindi il mio biglietto lo cedo all'amico Jerry. Anche se devo dire è bellissimo, Treviso Fortitudo è bellissimo. Tuffo nel passato non è male, anche perché si spera che presto possa essere una partita di livello più alto. No, anche perché questa Lega 2 è fantastica da un punto di vista di storia. Forse non è una bestemmia dire che è anche quasi più bella del campionato di A1, nel senso che c'è una quantità di squadre storiche, appunto Treviso, ovviamente Calabria, Salendo, Roma, Siena, certo. La stessa Fortitudo, insomma, un campionato da questo punto di vista veramente, veramente divertente. Sì, sì, molto affascinante, con tanto spazio per gli italiani, e infatti il pubblico va a vederlo perché si identifica più facilmente rispetto alla Serie A con la propria squadra. Senti Jerry, Tunisia, Croazia, tanto per cominciare, gironcino a tre, e poi è abbastanza così scontato prevedere la Grecia per una finale di questo mini torneo a 6 che si gioca a Torino e con l'Olimpiade in palio. Male non c'è andata. No, anche se abbiamo passato l'estate a dire che l'europeo che dura 20 giorni è una scommessa, un terno al lotto molto spesso, figuriamoci questo torneo che dura 5 giorni, quindi sì, ovviamente i pronostici, il valore assoluto delle squadre ci dice questo, insomma, che c'è andata bene e che la Grecia è l'avversario più pericoloso per la finale, però nel 2012 la Grecia è stata fatta fuori nel torneo preolimpico per uno di un punto dalla Nigeria. E quindi insomma poi bisogna giocarle le partite con avversari che conosci, sì, perché in questi tempi si conosce tutto, ma relativamente, soprattutto i giocatori europei non hanno mai giocato contro molti di questi, quindi le insidie ci sono, perché comunque il Messico è in grande ascesa. Ayon, che gioca nel Real Madrid, è la punta di movimento, che ha vinto FIBA America nel 2013, che ha fatto i mondiali nel 2014, c'è un allenatore europeo, è una squadra molto pericolosa, per esempio il Messico. C'è andata bene che non sia finito da noi, secondo me è molto meglio averla Tunisia, che abbiamo visto alle Olimpiadi, insomma sembra un po' più abbordabile, anche se il centro NBA ce l'hanno anche loro, Mejri, che fra l'altro le ultime settimane sta facendo dei numeri, ha fatto una stoppata su Westbrook che credo si ricorderà per tutta la vita. Sì, ma dai, d'altra parte si è preso l'allenatore italiano più bravo in assoluto, Ettore Messina. I ragazzi NBA stanno giocando, soprattutto Gallinari, un'eccellente stagione. Si tratta di completare, di chiudere il cerchio che insomma che avevamo disegnato benissimo per quasi tutti gli europei. Sì, no, quello sicuro, poi dovrebbero esserci tutti, un entusiasmo enorme obiettivamente, la possibilità di giocare davanti a 15.000 persone è un grande vantaggio, perché saranno tutte partite simili, spareggi, pomeriggio, certo, vista la formula del torneo, e quindi i presupposti ci sono tutti, direi che il lavoro alla base, diciamo, c'è stato, ed è chiaro che partiamo da favoriti con ottime ambizioni, però l'interno al lotto resta. Come si preparano le partite secche? Nel senso, del basket è abbastanza inusuale, c'è l'Eurolega che ha la stessa dinamica, no, della partita secca che decide tutto, ma insomma, mediamente nel basket ci sono delle regular season molto lunghe, addirittura lunghissime come nel caso dell'NBA, e comunque ci sono delle serie lunghe nelle quali poi alla fine è più facile. Un po' il discorso che facciamo prima a proposito della Coppa Italia, con questa anomalia della semifinale che è partita doppia, cambia qualcosa secondo te dal punto di vista proprio dell'approccio e della preparazione? Sì, secondo me cambia, ma dall'approccio alla preparazione non credo, perché poi la partita è quella e prepari la partita contro gli avversari, ogni giocatore riceve i consigli e i suggerimenti su cosa fare contro il rispettivo avversario, contro l'intera squadra che deve affrontare. Però cambia una cosa, secondo me, come dicevi tu, non c'è l'abitudine, e molto spesso per vincere per esempio la Final Four di Eurolega deve averne persa una. Questa è ci sono le eccezioni, ma è abbastanza la regola non scritta della pallacanestro, che devi passare attraverso qualche esperienza. L'anno scorso per esempio il Fenerbahce, che aveva giocato una grandissima Eurolega, ha giocato la sua peggior partita in semifinale ed è uscita, e quest'anno secondo me la grande favorita dell'Eurolega, anche per questo motivo, anche se sono cambiati i giocatori e anche se c'è un allenatore che l'Eurolega l'ha vinta 8 volte, però è proprio la novità di questo tipo di partite, ti porta a rischiare ancora di più. Sicuramente la squadra più forte rischia in questo tipo di tornei, proprio perché non c'è l'abitudine a giocarli. È chiaro. Grazie Jerry, un abbraccio. Grazie a voi, a presto. Ciao Jerry. Ciao. Partita secca, ci vogliono i nervi, ci vuole l'esperienza, l'abitudine. Sai benissimo, no Pierino? Sì. Però ecco, il basket da questo punto di vista è strano, perché appunto ci sono gli europei, le competizioni nelle quali si gioca la partita singola, ma nell'abitudine, nel kit normale, no, del giocatore di basket, c'è soprattutto la grande ripetizione delle partite, no? Quindi questo cambia, perché ovviamente l'impresa e la sorpresa è molto più probabile in gara secca che se giochi per esempio 4 su 7. Ci sentiamo domani al telefono. Domani sarò a Napoli, che c'è questa amichevole, in realtà non si può chiamare amichevole, è una partitina nel corso della sessione di allenamento fra Napoli e Positano, la squadra di Cecchi Paone, insomma, ci sarà un messaggio, trasmettiamo su Premium, credo in esclusiva, credo, non vorrei dire cose false, però sicuramente la trasmettiamo, ed è insomma l'occasione, un'ulteriore occasione per sensibilizzare, per trasformare quel clamoroso autogol. Sì. Me ne parlo da lì, sì, magari vi porto anche qualcuno microfoni. Perché si dice ai nostri microfoni? Non lo so, è microfono uno, è microfono. Però dice, me lo sono sempre intervenuto ai nostri microfoni. Quanti erano sti microfoni? Ciao Giorgio De Luca. Quanti erano sti microfoni? Uno. Al nostro microfono, a me, Giorgio De Luca, Gianmarco Ferronato e Federico Binda. Ci sentiamo domani alle 2. Ciao a tutti. Ciao. Arrivederci, ragazzi. Ciao.